Vergine, gennaio. L'anno inizia con un bellissimo Giove in ottava casa che vi permetterà di gestire al meglio le vostre finanze. Giove stimolerà delle forti passioni. Il vostro compito sarà quello di trovare il giusto equilibrio, riuscendo a prendere distanze da emozioni troppo forti e coinvolgenti. Il 3, Venere entra in acquario, aiutandovi nelle faccende lavorative e rendendovi molto disponibili verso colleghi e superiori. Il 12 gennaio, Marte riprende il suo moto diretto nella vostra decima casa. Vi sentirete più dinamici e motivati. Agirete con determinazione e coraggio. Dal 18 Mercurio riprende il moto diretto, favorendo relazioni e chiarimenti per chi è genitore nel rapporto con i figli. Da fine mese l'entrata di Venere in Pesci apre a nuovi incontri e vi renderà più dolci in campo relazionale. Febbraio. L'8, l'asteroide Vesta entrerà in Ariete, portandovi una certa difficoltà a controllare le spese. Il 14, una bellissima Venere congiunta a Nettuno, vi farà vivere un emozionante San Valentino, ricordandovi sempre di ascoltare l'altro e accettarne anche le piccole fragilità. Il 20 Venere entrerà in Ariete nella vostra nona casa, portando con sé il desiderio di approfondire degli studi e magari iniziare nuovi progetti. Particolarmente felici vi sentirete il 28 del mese, giorno in cui avverrà in cielo la congiunzione di Venere con Giove. Marzo, mese molto importante che segnerà dei cambiamenti nella sfera relazionale in campo lavorativo. Saturno entrerà nel vostro settimo campo dal 7 del mese, vi porterà ad essere più rigorosi in campo sentimentale e chiudere società o progetti con persone che non si comporteranno come voi ritenete congruo. L'altro passaggio epocale è il 23 di marzo, quando Plutone entrerà nel vostro sesto campo, portandovi a tirar fuori il vostro potere personale in campo lavorativo e a mettere il focus sulla cura del vostro corpo. Prenderete in carico voi stessi e il vostro benessere. Vi renderete conto di essere voi il miglior amico di voi stessi. Aprile. Il 3 Mercurio entrerà in Toro, aiutandovi con un morbido trigono a mettere il focus su viaggi e studi. Dall'11 Venere dai Gemelli vi permetterà di essere maggiormente diplomatici in ambiti di lavoro e saprete dire quello che sentite dentro anche a superiori o persone con un ruolo importante. Dal 20 di aprile una difficile eclissi vi porterà un leggero scompiglio che riguarderà i vostri progetti, che verranno leggermente ostacolati. Non preoccupatevi. I problemi che insorgono in eclissi spesso si trasformano in opportunità. Lasciate che il tempo faccia il suo corso. Maggio. Pallade entrerà nel vostro dodicesimo campo. Riuscirete a vivere creativamente anche le difficoltà, vedendole come opportunità di crescita e di evoluzione. Dal 15 la ripresa in moto diretto di Mercurio nel vostro nono campo vi aiuterà a riprendere in mano situazioni che si erano arenate nel corso della prima parte del mese. Dal 17 maggio in poi, l'entrata di Giove in Toro vi permetterà di vedere la vita sotto una nuova luce. Vi sentirete maggiormente dinamici, gioiosi e costruttivi. Dal 20 del mese, Marte in Leone inizierà a darvi una mano nel chiudere con situazioni del passato che vi lasciavano una sorda insicurezza. Avrete modo di lenire delle vecchie ferite dell'anima. Giugno. Il 5 Venere entra in dodicesima casa, sarete dolcemente seduttivi, portando avanti delle riflessioni profonde sulla natura dell'amore. L'11 Mercurio entra in Gemelli, portandovi nuovi progetti in campo lavorativo, vi sentirete apprezzati e molto motivati. Dopo il 20 del mese, sia Sole che Giunone entreranno in Cancro nella vostra undicesima casa. Questo vi aiuterà a essere un punto di riferimento tra i vostri amici e vi renderete conto di quanto preziosi saranno i vostri consigli attraverso il feedback delle persone che vi circondano. Il 26 giugno il quadrato di Marte ad Urano vi faranno chiudere con le persone che considererete inadatte a condividere il vostro percorso. Potrebbe essere un buon momento per scoprire dei nemici nascosti. Luglio, il 10 del mese, Marte entra nella vostra prima casa. Vi sentirete energici, coraggiosi e passionali. Vivetevi le nuove energie senza titubanze, altrimenti potreste facilmente somatizzare e non è questo quello che Marte vi sta chiedendo. Mercurio, che l'11 entrerà in Leone, vi permetterà di dare un nome alle vostre insoddisfazioni, aiutandovi in tal modo a fare un passo avanti, acquisendo sicurezza in voi stessi e fiducia nelle vostre potenzialità. Nodo lunare in ottava casa, che entrerà il 12 del mese, vi farà comprendere il vostro potere personale e tale aspetto vi accompagnerà per tutto il 2023. Dal 28 anche Mercurio entrerà in Vergine e vi sentirete ottimi oratori. La vostra mente sarà una lama tagliente, capace di discernere il benché minimo dettaglio. Agosto. Il 1° agosto ci sarà una luna piena in acquario, portando il focus sul lavoro. Per i nati in Vergine, inoltre, i primi giorni del mese saranno leggermente ostici a causa dell'opposizione di Mercurio a Saturno. Il 13, una congiunzione di Sole a Venere, quadrata Giove e Urano, vi porterà a prediligere la comprensione profonda di voi stessi e dell'altro, superando superficialità e atteggiamenti egoici. Il 27, l'opposizione di Sole a Saturno vi porterà a comprendere meglio cosa c'è da metter via del passato e abbandonare vecchi schemi, magari ereditati dal proprio padre o simbolicamente dalla figura paterna. Il 13 agosto vi sarà la seconda luna piena di questo mese, in Pesci, congiunta a Saturno. Potrete, a partire da questa data, chiarirvi con il vostro partner e chiarirvi dentro di voi cosa chiedete dal rapporto con l'altro, sentendovi in diritto di meritare il meglio. Settembre. Venere, il 4 del mese, riprende il moto diretto, quindi vi sentirete di nuovo in condizione di esprimervi e anche l'amore fluirà più liberamente. Anche il 15 Mercurio riprende il moto diretto, permettendovi di esprimervi in modo più libero e tutti gli spostamenti saranno facilitati. Il 15 del mese anche la luna nuova in Vergine sarà estremamente forte emotivamente e vi sentirete particolarmente aiutati dal destino e questo rafforzerà anche la vostra autostima. Ne beneficeranno in particolar modo i nati nella terza decade. Il 29 potrete assistere ad una luna piena in Ariete che vi traghetterà verso nuovi progetti e sentirete di nuovo il desiderio di aprire i libri. Ottobre, Mercurio entra in bilancia aiutandovi nel settore delle finanze, mentre dal 9 Venere nel vostro segno vi farà sentire sicuri del vostro fascino, rendendovi seduttivi, dando ulteriore armonia ai vostri modi. Il 17 anche Giunone entrerà in Vergine, rendendovi molto analitici in campo relazionale, permettendovi di vedere i difetti del partner in modo chiaro e razionale. Sarà una buona opportunità per esercitare la tolleranza. Dal 28 l'eclissi di Luna tra terza e nona casa vi inviteranno alla prudenza nelle comunicazioni e nei viaggi. Anche gli aspetti dinamici tra Marte, Mercurio e Giove vi consigliano prudenza e a fare attenzione alle possibili perdite economiche. Novembre, l'8 Venere farà il suo ingresso in bilancia, aiutandovi nelle scelte economiche. Poi Mercurio in Sagittario, in quarta, a partire dal 10 di novembre, vi porterà a dovervi occupare di faccende riguardanti la casa e la famiglia. Poi anche il Sole raggiungerà il Sagittario il 22 del mese, per poi essere a sua volta raggiunto da Marte il 24. Quindi una fine mese molto casalinga, soprattutto dopo l'entrata di Marte, avrete modo di chiarire delle faccende familiari che attendevano da anni di essere prese in mano e risolte. Dicembre, il 1° giorno del mese, Mercurio entra in Capricorno facendo un benefico trigono dalla Vergine. Potrete esprimervi creativamente e avere nuovi incontri. La socialità sarà sostenuta da Venere in Scorpione a partire dal 4 di dicembre. Riuscirete ad esprimervi in modo suadente e carismatico. Dal 13 dicembre, l'inizio dell'ultima retrogradazione di Mercurio del 23, vi porterà l'ultima riflessione che permetterà di comprendere meglio sia i vostri figli che le ragioni dei vostri partner. Il 27, l'ultima luna piena dell'anno, che avverrà ai primi gradi del Cancro, vi aiuterà a comprendere meglio le dinamiche di gruppo, facendovi comprendere le vostre e le altrui fragilità. L'anno in generale sarà costruttivo e di grande crescita interiore. Dopo marzo potrete confrontarvi con dei leggeri ostacoli, ma la vostra umiltà vi permetterà di accettare gli errori e farne virtù. Giove vi sarà particolarmente favorevole nella seconda metà di maggio, quindi soprattutto in quel periodo potrete raccogliere i frutti desiderati e settembre vi farà riprendere in mano la vostra vita in modo dinamico ed efficiente.